È chiaro che per noi l'importante è lavorare per poter guadagnare quel poco che ci basta. La mia mamma poi mi ha detto che se mi farò valere potrò un giorno diventare anche vice-ragioniere. No, noi non siamo come quella gente, nulla facente, che solo scioperi vorrebbe fare. E se è ben chiaro che quel sindacato io non l'ho sposato, posso divorziare. E le promozioni mista, no, non le vorrei sciupare, no, non sono una rivista, vorrei solo migliorare. Ecco, è mattino, il sole non ancora illuminato, le strade piene di malinconia, le strade che mi portano in città. Lungo quel viale comincio a pedalare salutando gli amici, tornano al lavoro, sperando che forse domani, domani, domani, domani. Vedo soltanto il loro fiato, le loro mani ancora stanche, i loro occhi che diverso. E poi al lavoro, muover le mani senza mai fermarsi, il volto tutto pieno di sudore, fare le stesse cose ore e ore. Sai, tu che canti canzoni, ma che ne sai della vita che faccio? è che ti dà il diritto di parlare in nome mio. Dovrei essere io a parlare di me. Ma per comporre versi ci vuole l'istruzione, così che la parola esprima tutto un mondo interiore. E invece il mio mondo rimane soffocato tra macchine e padrone, padrone e sindacato. E ti risponderò con le parole che il sindacato ha scritto per me. La busta paga che tu mi dai, caro padrone, me la fatico. E se non credi a quel che dico, mettiti pure a lavorare. La busta paga che tu mi dai, caro padrone, me la fatico. E se non credi a quel che dico, mettiti pure a lavorare. Oggi c'è stato un urlo al capannone B, il puzzo, il fumo e l'acido uscivano di lì. Oggi c'è stato un morto al capannone B. 5 minuti, sciopero, da oggi a lunedì. Ci hanno detto state buoni che poi tutto cambierà, ci hanno detto di aspettare la nuova società, ma vorremmo far qualcosa anche noi, partecipare. Non vi preoccupate, tutto andrà benone, ci pensiamo noi dell'organizzazione. Noi rappresentiamo voi, perciò amici lasciate fare a noi. Poi domani ci sarà per voi tutti pace e libertà. Noi rappresentiamo voi, perciò amici lasciate fare a noi. Poi domani ci sarà per voi tutti pace e libertà.